Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Sta per iniziare Eclettica dell'11 dicembre, di martedì 11 dicembre. Lo dico non tanto per chi sta ascoltando in diretta sulle frequenze di Rock FM, perché probabilmente sa in che giorno, in che data ci troviamo, ma per chi magari ascoltando in podcasting si domanda quale fosse il giorno originario di questa trasmissione. Giulio Caperdoni in vostra compagnia come tutti i giorni della settimana, fra le 19 e le 20. L'indirizzo di mail è giulio@radiorockfm.com nel caso vogliate scrivermi direttamente, ma anche nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera di Eclettica, ricevere in questo modo settimana dopo settimana nella vostra casella di posta direttamente l'elenco delle canzoni, dei film e delle letture che costituiscono la trasmissione. myspace.com/eclettica è uno dei due siti internet di riferimento, quello gestito direttamente da me, diciamo così, e poi c'è www.radiorockfm.com che invece è il sito della radio. Poco prima dell'estate però feci un'incredibile stupidaggine. Stanca di essere efficiente di giorno e sola di notte, andai a letto con un affascinante fotografo tedesco di nome Peter. Avevo rischiato di svenire la prima volta che l'avevo visto in ufficio. Ho sempre detestato le storie di sesso, ma nessun uomo mi aveva mai fatto quell'effetto. Ci andai a letto al secondo appuntamento. Mi aveva portato a cena in un grattacielo da cui si vedeva tutta Manhattan. Avevamo mangiato delle cose deliziose e mi aveva parlato delle rovine di Petra, del Bushkasi, un gioco tradizionale afghano, e di una serata in un caffè ad Alessandria d'Egitto in compagnia di Lawrence Darrell. Neanche una volta, nei mesi successivi, tra le lenzuola, mi guardò negli occhi. Preferiva appoggiare il suo bel mento sulla mia spalla mentre facevamo l'amore. Non era niente di speciale, a dire il vero. Un uomo come tanti altri, che raccontava splendide storie e una volta a letto, si aspettava da te più di quanto non fosse intenzionato a concederti. Nella mia vita, però, non c'erano altro che le lettere di un lontano Danny James e così mi convinsi di essere innamorata di lui. Questo era ancora Ossi di Luna, di Jonathan Cairo. As bread breaks, as bridges bust and quake, underfoot uprooted and waiting, this blind side stroll casually by, underneath the steps left behind will be leading. And at first glance, only form did he see, weathered over by time, as lined side by side, placing mirror in front of he, his own rippled water, sudden spy, his own rippled water, his own two eyes. But they cried, cast not your weary glances here, for I have to carry my own, my wings, my shoulders, and blades, they say, will wash away my enemy. These blades, they say, will wash away, will wash away. These blades, they What's your name, dude? Mart Eastwood. Clint Eastwood. What kind of stupid name is that? I'd say he's the run of the litter. Hey now, boys. Would you take a look see at these pearly whites? Hell, I ain't seen feet look that straight worn store bought. Oh, take a gander at them moccasins. What kind of skins is them? What's that writing mean? Nikkei, what is that? Some sort of engine talk or something? We'll bring peace. Abbiamo ascoltato quest'oggi in apertura Bit Bit Whisper, ovvero sia Ayla and David, sorella e fratello, che arrivano da Oakland Bay Area, incisione per la Digital Cloud dal titolo First, dal quale sono andato ad estrarre Then Suddenly Apart Were Shared. E poi da Glasgow hanno appena chiuso Square 9, i Frightened Rabbit, per proseguire invece con una di quelle che sarà fra le prime uscite dell'anno nuovo. Infatti sto parlando del disco che uscirà per la Non Such il 15 di gennaio, dopo la pausa natalizia, da parte di Stephen Merritt, ovvero sia The Magnetic Fields, disco che si intitolerà Distortion e che si aprirà proprio con la traccia che vi vado a far ascoltare, Three Way. Psicologi consigliano di non andare a fare la spesa quando si è affamati, perché ogni cosa acquista un'aria appetitosa e si tende a comprare di tutto, dal popcorn alle ostriche, ogni sorta di cibi, anche i più assurdi, perché in quel momento il nostro stomaco dice di sì a tutto, alimenti sensati e nutrienti, come pure schifezze di ogni genere. Io incontrai Peter quando avevo una gran fame e ritenni di avere di fronte un bocconcino delizioso. Quando scoprii di essere incinta, mi ci vollero 3 giorni per trovare il coraggio di dirglielo. Lui mi disse che la nostra era una storia bellissima, un vero schianto, ma non era amore. Disse che aveva un amico che conosceva un buon medico abortista. Gli risposi che ci avrei pensato io, e così feci. Ero troppo giovane e sicura di avere in serbo un futuro meraviglioso per pensare troppo a cosa avrebbe significato perdere quel bambino. In cuor mio sapevo che prima o poi avrei voluto diventare mamma, ma non in quel momento, non con un uomo che non mi amava e non con tutta quella paura e quella rabbia e quei semafori rossi in testa. Ora, ciò che ricordo meglio di tutta quella esperienza è il senso di serenità e dolcezza, il sollievo che provai al mio risveglio in quel letto di ospedale in un tardo pomeriggio d'agosto, sapendo di non avere più nessun bambino dentro di me. Non avrei più voluto alzarmi da quelle bianche lenzuola scricchiolanti, accarezzate dalla luce soffusa che filtrava dalle finestre. Tornata nel mio appartamentino, mi misi a sfogliare una rivista. La prima cosa che mi colpì fu l'immagine di una famiglia che faceva picnic su un prato verdissimo. Credo di essere rimasta a fissarla per una decina di minuti. Avevo lasciato il mio bambino in quell'ospedale. Non lo desideravo, neanche con quella fotografia posata sul grembo indolenzito. Ma non importava. Era come se non mi fosse rimasto più nulla. Un compagno d'amare, il figlio di quell'amore. Niente di niente. Questo era ancora Ossi di Luna, di Jonathan Carroll. Il titolo del nuovo album del quintetto bolognese di nome Settlefish, album che esce in Italia ma anche in Europa grazie alla Unhip Records ed esce in Inghilterra e negli Stati Uniti grazie alla Deep Elm. Da questo album ci siamo appena ascoltati il pezzo Summer Drops e tutto questo è successo all'interno di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, che proseguirà più o meno fino alle 20, dico più o meno perché la precisione oraria non è che sia proprio una delle caratteristiche di Rock FM, non è questo che ci fa piacere ai nostri ascoltatori. Proseguiamo ora con una cover che è presente su un nuovo disco del gruppo di cui il brano viene rifatto. Sto parlando del nuovo disco, del nuovo EP dei Why, che nelle scorse settimane ci siamo ascoltati, infatti ci sono lì le playlist a provarlo, il quale contiene al suo interno una cover di un brano dei Why di qualche anno fa, era contenuto all'interno di Elephant Eyelash del 2005, la versione originale, cover che è fatta dai Xu Xu, quelli scritti Xiu Xiu, quelli di James Stewart per intenderci. Il brano si intitola Yo Yo Bye Bye ed è sicuramente molto meglio dell'originale. Mad Dog, especially not some dooted up egg sucking gutter trash.